5D. Ascolta e rispondi. Perché non dormono? Dormirebbero, ma c'è rumore. Perché non partono? Partirebbero, ma stanno poco bene. Perché non proseguono? Proseguirebbero, ma la strada è interrotta. Perché non applaudono? Applaudirebbero, ma lo spettacolo non è piaciuto a nessuno. Perché non obbediscono? Obbedirebbero, ma non condividono gli ordini. Perché non riferiscono bene? Riferirebbero bene, ma non hanno le idee chiare.